Federico. Buonasera. Buonasera, Federico. È qui, Federico, è qui. Federico ha scritto questo libro, un libro che io non sono la persona più adatta a introdurre per tante ragioni. Una, perché conosco lui. Due, perché in gran parte quelle cose, non tutto, cioè negli ultimi anni no. Perché è un libro, sono di fatto 30 anni. 30 anni di storia, storia importante, con quella si pensi, storia decisamente molto importante. Importante per la qualità degli eventi che sono stati prodotti e per la quantità mostruosa di persone che sono state toccate da questa storia. Perché se noi mettiamo insieme i cortei, gli eventi, i concerti, tutto ciò che anche solo il movimento dei centri sociali o il fenomeni che ci sbassa accanto, no? Per esempio il fenomeno della techno, inteso come movimento illegale, come tazze, come movimento di riappropriazione degli spazi del tempo, della gioia del corpo, anarchica, in tutti i sensi. È un libro pure troppo piccolo per tanta roba, cioè a volte tu ci passi accanto e dici no, ma sta cosa è velocissima. Però è un libro fondamentale perché lui ha, innanzitutto non so tante persone che si sono messe a fare questo tipo di storia, cioè questa storia non l'abbiamo scritta, l'abbiamo in tanti vissuta ma non è stata scritta. Questo è l'inizio, comincia ora, questo momento di distacco che ci porta a ragionare su questa cosa. E comincia ora, voglio dire, tristemente perché quando uno si mette a scrivere una storia vuol dire che quella storia è finita. E in questa cosa qui è un fenomeno generazionale, un fenomeno esistenziale, però nel libro di Federico si sente tanto, perché è un libro che comincia proprio intriso di morte. Intriso di morte nel senso che comincia da un suo timore, un giorno in cui pensa ad averci il coccolone di schiantare, e in cui comincia a pensare questa cosa, quindi comincia a pensare quello che hai fatto, quello che hai fatto, quello che è stato importante, quello che devi salvare di tutto quello che hai fatto, con lutto, con una serie di cose. Però questa sensazione di elaborazione di un lutto al di là della morte degli individui è in qualche modo epocale, cioè non è un discorso negativo quello che faccio, cioè è sano che oggi non ci siano i rockabilly, è sano che non ci sia il 68, perché arriva un momento in cui tu devi prendere atto che il mondo è cambiato, il mondo dagli anni 90. Stranamente io ho conosciuto Federico nel 93 a Pirateria, all'occupazione di Pirateria, però come generazione siamo lì e abbiamo fatto le stesse cose. Lui parla al volo di, che ne so, di quello che faceva da ragazzino, che era esattamente quello che facevo io, cioè se andavamo all'isola di Berina, nel pilastro ultimo, se mettevamo lì, non c'era la cosa di coraggio, di dove passare perché faceva quasi paura, scavalcavamo i fori, cioè è un fenomeno anche generazionale. Siamo arrivati al muro dei vent'anni in cui, mossi anche da immagini, cioè per esempio tu metti, c'è l'immagine quella classica del Leoncavallo dell'89, quella ci ha dato a tutti noi la sveglia che era possibile, cioè che era possibile mettere un muro a tutto quello che ci stava cascando addosso. A un certo momento noi eravamo i ragazzini, quelli che noi siamo affacciati alla politica, eravamo un movimento di deficienti, cioè eravamo i ragazzini del 85, eravamo deficienti e sapevamo di essere un gruppo di deficienti. Però bisogna capire una cosa, che tra il 78 e l'85 c'erano 7 anni, cioè a noi che avevamo, che ne so, magari 15 anni, 7 anni sembravano tantissimi, cioè tra l'85 e il 78 ci sembrava che ci fosse stato un abisso, e invece, cioè pensarci adesso, 7 anni sono niente. Ma in effetti c'è stato l'abisso. C'è stato l'abisso, però in un tempo velocissimo, quindi noi ci siamo affacciati al mondo, alla politica concreta, non sentita a casa, non vista in televisione, ma concreta, scendo in piazza, che c'erano proprio le macerie che ci cascavano addosso. Cioè, i compagni che andavano dentro, cadeva tutto in quel momento. Cioè tu andavi a, che ne so, a San Lorenzo, percepivi proprio un'isola, cioè la radio, lui è stato per tanti anni voce, uno degli animatori e dei cervelli di Radio Onda Rossa. Io da ragazzino non sapevo niente, però sapevo 49, 17, 50, cioè noi sapevamo che se c'era un problema noi chiamavamo la radio, cioè noi si chiamava la radio, 49, 17, 50, per me che stavo a Viale Marconi era comunque il numero della salvezza, cioè chiamava 113, io chiamavo 49, 17, 50, Radio Onda Rossa, per noi era fondamentale. Allora, adesso sto parlando così un po' a cazzo, diciamo, mischiando le cose, però per dire che in questo libro così veloce, poi lui ha un'esperienza da giornalista, quindi è scritto giornalisticamente, no? C'è questa ambizione di voler raccontare le storie come se non fosse lui, c'è questa scelta, per me disturbante all'inizio, perché lo conosco, di sentirlo parlare in terza persona, poi ti abitui e capisci, che vuole essere una presa di distanza oggettiva, no? Giornalistica, poi mi dirai se tutto è chiaro, però c'è una velocità, cioè un libro veloce, è un libro comunque che si legge velocemente, si legge velocemente perché è proprio giornalistico. Arriva ta ta ta ta ta e fa il punto su una storia lunga, importante e è scritta bene, devo dire, velocemente, con l'ansia di non rinunciare a niente. Cioè lui, ci sono dei momenti in cui magari ci sono delle cose fondamentali, lui si ferma, invece si ferma lì per dirti la cazzata che ci dicevamo, che ne so, tratta da quel film di Thomas Milliam, la frasetta, no? È come se c'è quest'ansia che c'hai là quando devi elaborare un lutto, c'hai, è il momento in cui tu vorresti salvare tutto, cioè il momento scemo, la piega, la cosa, e la cosa importante, il dramma, le persone che sono morte, Bianca, ci sono tante cose, tantissime cose dentro, e di tutto quel movimento enorme che era, i militanti, cioè quelli che più o meno sapevi che se c'era un corteo c'erano, quelli che si occupavano due treni vanno a Amsterdam, e comunque eravamo 5.000, a Roma potevamo essere 2.500, non lo so, però poi le persone vere, quelle che facevano le cose, che quindi ci si vedeva nelle assemblee, i referenti delle strutture erano ancora meno, ecco perché è una storia importante, perché è scritta da una delle persone che c'era, che l'ha fatta, e lui è anche uno di quelli che, ne so, prima di pirateria, quando ha fatto a Scatasuna, se lo sono pure deglutito, hai visto, insomma, Roma da quella prospettiva antipatica. Cioè, stiamo parlando di qualcuno, appunto, che ci racconta una storia con l'ambizione di raccontarla da un punto di vista terzo, che la storia l'ha fatta tra quei pochi che comunque la facevano dedicandoci la vita e mettendo il cranio sul piatto, perché noi comunque... Per i fascisti li sono venuti sotto, le guardie li sono venute sotto, cioè era lì la differenza tra chi parlava e chi sapeva che comunque ci metteva il corpo, il suo futuro, il suo presente sul piatto, no? Tanti ce lo mettevano e quelle persone sono quelle che poi la storia l'hanno fatta e l'hanno determinata. Ma in alcuni casi, uno in particolare, Fedingo, in questo caso perché si parla di questa storia qui, è stato proprio il protagonista di una storia molto molto importante perché ha cambiato anche la giurisdizione, cioè in tutte le città c'è questa strada, no, che si chiama via Bruno Buozzi, cioè sempre, dappertutto. E Buozzi era un compagno, un partigiano, uno che fu fatto scannare da Priebke anche. E se Priebke a un certo momento non è uscito di galera, assolto dallo Stato italiano, si è cambiata la sentenza, è stato grazie a lui. Non solo lui da solo che ha fatto la cosa, però è stato lui che ha animato. Penso che questa è una delle tante storie che ci racconta dove lui ha giocato veramente un ruolo molto molto importante. Sì, è probabilmente l'episodio di maggior rilevanza storica, direi pure internazionale, perché il processo Priebke è stato importante da tanti punti di vista. Io ho cominciato a seguirlo per la radio perché sapevo che era un passaggio fondamentale, storico. Era uno degli ultimi criminali nazisti ad essere giudicati e sono entrato subito in contatto con Rosetta Stame, figlia del tenore Ugo morto alle Fosse Ardeatine. E lei ha capito che era importante questo giovane giornalista che seguisse questa vicenda, perché c'erano sicuramente i media a seguirla, però io ci stavo proprio, seguivo tutte le udienze, io facevo tutte le corrispondenze, lei mi ha presentato i partigiani Orfeo Mucci e Franco Bartolini, dei GAP e di Bandiera Rossa. Durante il processo abbiamo anche dato vita alla trasmissione Voci della Resistenza sulla memoria storica e Orfeo e Franco erano due referenti abituali della trasmissione. E poi c'è stata la vicenda della sentenza. Io in quel momento non ero in Italia, però c'erano Emiliano e Ottavio che seguivano il processo come avrei fatto io. E quando c'è stata la sentenza che praticamente avrebbe rimesso in libertà Priebke, perché il fatto era andato, secondo la giurisdizione di allora, andato in prescrizione, c'era sia anche la comunità ebraica dentro, al processo. Però ma poi materialmente sono stati Emiliano e Ottavio che hanno chiuso il portone. C'è stata una ressa perché uno dei soldati aveva chiuso il bar e c'erano anche anziani che dovevano bere acqua, per esempio, bottiglie d'acqua. E quindi c'è stata questa tensione con questo soldato. Nella tensione sono riusciti a tirar via le chiavi di tutto l'edificio a questo soldato, Ottavio ed Emiliano, e con quello hanno chiuso il portone. Da lì non si usciva più. Quindi dentro c'era la comunità ebraica. Fuori, chiamati dalle corrispondenze di Emiliano, il movimento antagonista romano è andato lì e si è scontrato con la polizia, ha messo a soqquadro tutto l'isolato, bloccando le strade. E quell'episodio è stato anche importante per altre ragioni. Intanto in quell'occasione si è saputo che Priebke sarebbe stato, c'era un aereo pronto per portarlo via. E quindi il fatto che sia stato chiuso dentro il tribunale, tra l'altro protetto da pochi soldatini, quindi se la gente avesse voluto se lo sarebbe pure preso. Poi è arrivata la richiesta di estradizione dalla Germania, Priebke non è uscito, è rimasto dentro e è stato fatto un nuovo processo, che stavolta, visti i precedenti, si è spostato nell'aula bunker di Rebibbia. Dove io poi sono andato, continuavo a seguire il processo e in un'occasione c'è l'importante precedente della sentenza in cui c'è stata quella rivolta. Avevo portato con me i volantini della trasmissione. Rosetta Stame mi disse: me lo fai leggere? Nell'atto di darglielo sono stato prelevato, portato in commissariato dentro l'aula bunker e Rosetta si è data subito da fare, è andata da un importante esponente della comunità ebraica che era presente al Uno dei processo. rarissimi casi in cui siamo riusciti a fare le cose insieme, perché normalmente con la comunità ebraica, diciamo, Non corre corre. sempre buon sangue, e quello fu l'unico caso in cui riuscimmo a fare una cosa. Perché c'era stato il precedente della sentenza, con il movimento antagonista che si scontrava fuori dalla porta con la polizia e loro dentro che bloccavano Priebke, c'è stato un nemico comune. E questo esponente è entrato dentro il commissariato, io stavo davanti al superiore, alla scrivania. Questo esponente della comunità ha aperto la porta, ha detto: volevo solo verificare le condizioni del ragazzo. Ha richiuso la porta, questo super poliziotto si è alzato in piedi, mi ha dato la mano e mi ha fatto uscire. Questo per dire come funzionano anche un po' le cose. Lì il problema era che questi si erano organizzati per far sì che questo boia, che non è che ha fatto solo le poste erbelline, ne ha fatte tante, appunto, l'altro quello dell'eccidio, l'altro non è, ne ha fatte tante e ha continuato anche dopo, insomma, e ha sempre rivendicato tutto in qualche modo, perché ha detto sì, avevamo solo 5 prima, tanto erano terroristi. Erano pronti, hanno sistemato tutto, c'era un aereo e se non fosse stato per Federico che da solo si è incaponito e ha fatto, e ci ha detto a noi tramite la radio e quindi poi a tutta Roma, a tutti i compagni, sta succedendo questa cosa, se non ci fossimo organizzati, se non l'avessimo fermato, non ci sarebbe stata la condanna, la sentenza di condanna che ha dato il gas, ma non è stato solo questo, cioè non è stato di essere solo quel vecchio bastardo, infame, è stato un cambiamento Sì, giuridico, giuridico. perché è passato il principio che c'è l'imprescrittibilità per determinati reati. Per E questa è crimini stata di una cosa. guerra e la responsabilità individuale, perché c'erano i precedenti del processo a Kappler in Kappler. cui i suoi pari grado erano stati assolti perché obbedivano ad ordini. Così non è più adesso. Questi due cambiamenti che hanno veramente cambiato la giurisdizione, questa è stata una cosa fondamentale. E se lui 5 anni fa da ragazzino fosse incaponito, probabilmente questa cosa non ci sarebbe stata, perché quelli squisciavano, se ne rubavano le chiavi, non c'era questa cosa, questa alleanza strana in quel momento con la comunità ebraica. Questo è stato uno per dire che tante cose abbiamo fatto, magari cazzate, sono divertite, abbiamo giocato, ma qualcosa è stato fatto di veramente rilevante. Tra i momenti che abbiamo giocato, uno divertentissimo, ho giocato, uno divertentissimo che non dimenticherò mai è quando occupammo i due treni per Amsterdam. Andammo perché era assurdo che le merci potessero passare, che tutto, che i capitali potessero passare, le persone no. Quindi noi prendemmo sui due treni, c'è cioè chi ride già, e prendemmo sui treni, arrivammo a Milano, andammo a Milano, bloccammo la stazione di Milano, la stazione centrale di Milano, perché non ci volevamo far partire, con un rumore meraviglioso che ricorderò per sempre, perché c'è in quel capannone, c'è un'acustica splendida, e stavamo lì, se batteva su qualunque cosa, proprio Amsterdam! Cioè uno dei ricordi più belli, più sonori, meravigliosi che c'ho. Alla fine per mannaggia via avevo preso sto treno, se non deficiente dei conti che ha tirato, che ha fatto male a un cretino, sì, ha fatto male a quel poliziotto lungo la strada inutilmente, quindi sono stati poi dei Hanno problemi. smontato l'accesso del treno E gliel'hanno tirato a stare guardie. In Germania, no, quale fu il problema? Che poi quel treno lì fu bloccato. Questi rimasero, noi no, andammo a fare spesa, facevamo cose, ma un treno sano rimase lì bloccato e quando ripassammo in Germania, lì ce l'hanno fatta pagare i tedeschi e sono entrati vagone per vagone, treno per treno, lì erano sì militanti, ma non abbastanza, solo il vagone nostro ha fatto resistenza e quando ci dissero, tutti gli altri si sono arresi, quindi adesso stacchiamo sto vagone, voi rimanete qua. E noi abbiamo detto, l'unica risposta che fu, ragazzi, sbrigamoci, fumamose tutto adesso subito, questa fu l'unica risposta, ma non c'è, e ci saremmo tutti, saremmo morti lì, perché c'era uno che si era mangiato dei funghi allucinogeni, faceva ballare, là stava male, passava notte di salire, delirio, e faceva il tic-tac per un attimo, mi è venuto una scella, mi si è addormentato addosso. In quel momento l'unico che ci salvò, perché era veramente, stavo impazzito, anche perché, cioè, c'erano tutte le sostanze del mondo, io avevo fatto 2 canne di puzzone da Roma. E vi dirò sta cosa, che nessuno ci crede, ma quando siamo tutti a fumarsi il rosso, il blu, il giallo, tutti i fumi del mondo, e io avevo il puzzone di Roma, venne la gente a dirmi, mi fai fare 2 tiri, per nostalgia, capito? In quel momento di delirio, di assoluto, eravamo tutti perduti e smarriti, ci ha salvato il Fedingo, come al solito, perché prese la radio del treno, cioè non era la radio, era l'interfono, e la trasformò in radio onda rossa in trasferta, e quindi sentì la voce sua, che era la voce della radio, la voce di mamma, che diceva le cazzate, no? Fu una cosa che ci rassicurò tutti. Disse, vabbè, là stiamo a casa, sti cazzi. E, insomma, ci sono stati momenti divertenti. Uno in cui invece non si sono... Cioè, dipende dai punti di vista che stiamo a discutere adesso, quando diciamo che il povero Dario fu massacrato dalle guardie, fu menato, niente di che, fu menato. Niente di che. Fu menato dalle guardie e ho scoperto che praticamente dice che c'era un gruppo di persone, dei compagni che ci cercavano e ci volevano menare No, all'indomani, cioè, ci fu una riunione. Ah, ma si sono pure menati a dire voci, insomma. No, ma lui stiamo parlando del 2000, Parliamo della manifestazione, no? quella Martedì volta che grasso. facemmo regalare in street le Sì. birre, gli acidi, si sono menati le voci? No, vabbè, dopo ci sono stati tutti strascichi. Io non mi Non ricordo. Non so o non mi ricordo, non so. Qualcuno che dovevamo solo ballare, ma è qua quattro che c'era. Sì, c'ha avuto degli strasci, come no? Io stavo pure in Quando momento, no, si di fare. Guarda, tu quando nel libro scrivi un pezzo degli organizzatori, cioè tu sei consapevole che stavi a parlare uno, Eh beh, eh sì, poi perché poi tu mi hai raccontato anche i dettagli che sono stati utili per ricostruire Vabbè, però tu ne parli completamente. negativamente di questa cosa, mentre invece non fu una cosa negativa, perché noi non facemmo vandalismo, noi volevamo riportare in Beh, no, maniera il risultato generale fu. Nel momento in cui sono partiti gli scontri è chiaro che è successo di tutto, quindi la cosa che si rimproverà è che non c'era un obiettivo, era Ma il carnevale in sé non è che nasce. Era un Era un carnevale, era un carnevale. Ma io infatti ho riportato comunque quello che è passato No, lì come tu ti sei senso messo in comune. mezzo, ha fatto da una parte sì, la cosa, i vandalismi, dall'altra la repressione eccessiva della polizia. Però per dire che per quanto questo racconto sia un racconto fatto decisamente dall'interno, da, come si diceva, da uno dei protagonisti, e, però è scritto in terza persona giornalisticamente, è Sì. comunque un punto di vista. È È comunque certo, un punto di vista. E che non c'è, cioè, la terza persona non riesce comunque a dissimulare il suo punto di vista. Perché, per esempio, quella cosa lì per me fu fondamentale, la denuncia del fatto che i centri sociali stavano in qualche modo incupendo, stanno in qualche modo istituzionalizzando, chi trattando direttamente, chi rinunciando alla OE e accettando sì. le cose dal comune, chi Era in corso diventando pure la trattativa, un rischio la di centro delibera. commerciale, per cui per noi era una provocazione fondamentale andare lì a dire, a scrivere caos col punto, non caos, ma scrivere l'anagramma di CSOA. Il dire il caos non è in vendita, era un dire attenzione compagni perché i CSOA rischiano di entrare in un altro mercato. Quindi portare un po' di euforia, un po' di delirio, un po' di lisergia, un po' di scontri, un po' di quello che siamo, cioè anche creatività e caos. Ci siamo divertiti tanto. Cioè, io mi ricordo Melania che stava all'Erasmus, erano 2 anni, non la vedevo, ci siamo incontrati correndo. Io ho fatto ciao Mela, ma tanto che non ti vedo, ah, ciao, stai, scusa, devo scappare, capito? Cioè è stata una cosa comunque. Momenti, ecco, ci sono stati momenti ludici, momenti duri, momenti duri. Io sono citato in un momento, devo dire. Western, molto western. Sono citato in un momento western. Vabbè, era un momento praticamente che eravamo sotto attacco, noi avevamo fatto. Praticamente loro hanno occupato prima di noi. A Scatasuna, stavano a Monteverde, che era un quartiere abbastanza difficile, tutti c'erano i fasci, Piazza Ottavilla, c'era questa situazione, era un quartiere borghese. Gli anni 90 segnarono da questo punto di vista una grossa separazione, perché i primi centri sociali erano un po' in continuità, no? cioè comunque anche generazionale. Sì, a metà degli anni 80 erano quasi tutti dell'area autonomia operaia, i primi centri sociali, a parte il Forte Prenestino, però insomma il resto erano dal Breakout, l'Hai Visto Quinto, al Ricomincio dal Faro, erano tutti quell'area. Ma lo stesso Leoncavallo, erano comunque residui, fortini, cioè di un mondo che crollava, a un certo punto gli stringeva e c'erano questi fortini. Negli anni 90 ci fu questa nuova generazione, gente come lui per la Scatasuna, io per esempio in pirateria, perché pirata appunto zero, diciamo, quello che ho chiamato con gli altri, però lui, tu hai fatto la stessa cosa, sì, per la Scatasuna. A un certo momento, arrivati appunto ai 20 anni, dici, boh, basta, cioè adesso facciamo una cosa, che non è più andiamo nello spazio che c'è, andiamoci a difendere là, ma mettiamoci in gioco e costruiamo una cosa per noi, no? E quella è l'apertura di una generazione. E loro fecero questa cosa molto importante a Scatasuna, che appunto poi finì, come abbiamo detto, con lui deglutito. E poi fu bello quando noi arrivammo infine a fare questa grossa assemblea del gruppo di pirateria. È bello perché si legge al contrario, perché a un certo momento sono arrivati i compagni da Scatasuna. Ed è sempre un problema quando tu costruisci un collettivo in cui devi affrontare delle decisioni importanti, perché prende degli spazi, cioè comunque violi la legge, comunque le metti in gioco a 20 anni. Era molto fluida, eravamo tutti diversi, e a un certo momento all'improvviso sono arrivati sti... quanti era? Un gruppetto? Eravamo io, Caris, Alice, soprattutto, poi sono aggiunti gli altri, però insomma il nucleo... Da Giacomo, Andrea, un gruppetto, e creò subito un casino, perché noi eravamo già diversi, poi c'era un gruppo comunista, vedero-stalinista, c'era un gruppo così, e arrivando loro tutti insieme, che già c'erano un'esperienza, lì ci furono dei casini. Diciamo, non eravamo ben visti. Non erano ben visti, finché arrivano che poi loro furono cacciati alla fine. Tu lo racconti, quando ti messi il posto di Stalin io non posso entrare. C'è stata questa rottura nel collettivo, per cui quest'area che faceva riferimento a un circolo di rifondazione comunista di estrazione stalinista non aveva più niente a che il fare. Il mirico Pietro Secchio. Il circolo Pietro Secchio. Il mirico Pietro Secchio. Sì. Che comunque erano simpatici. E quindi se ne andarono... Sì, poi ci fu quell'episodio, c'era un concerto per la radio al Forte, a pirateria erano rimasti questi manifesti di cui noi utilizzavamo il retro bianco per fare la Zebao, dei manifesti col faccione di Stalin, che erano di un'iniziativa del circolo Pietro Secchia, e noi facemmo dei segnali di divieto d'ingresso messi sopra il faccione di Stalin all'ingresso del villaggio globale, insomma, e la cosa, insomma, suscitò anche un po' di diatribe con i Redskin. Era un concerto, sì, mi sembra, dell'area Redskin. Vabbè, insomma, era comunque un fronte mosso, cioè era una sezione sempre divertente. Io c'avevo un poster di Stalin dentro l'armadio, cioè io me lo rivendicavo in quanto scheletro nell'armadio. Quindi, e a un certo punto c'era Stalin, che secondo me era importante ricordare. Però ecco, no, io con tutto ero stato dalla parte dei buoni. Quando ci fu la scissione, nonostante insomma fossi amico di questi, ero subito passato al fronte del mischiare subito quei buoni. A proposito di questo, sono due momenti belli di pirateria, che comunque era un posto meraviglioso, pirateria 1 e 2. Uno che lui definisce addirittura poetico, e lo ringrazio, e se volete c'è il video, lo potete cercare, quando facemmo l'assalto al gazzometro, che se cagammo sotto, altro che oggi col parapendio, lì mi sono cagato veramente sotto, perché c'era un vento allucinante, una struttura marcia, completamente marcia. Un vero assalto al cielo. Quello fu un vero assalto al cielo, perché il tutto gazzometro era marcio, non l'avevano restaurato, quindi camminavi questo ferro tutto completamente rotto per mettere questa bandierina del cazzo, che poi scesa era un quadratino minuscolo, era altissimo, capito? Quindi cazzo se non è fatto. Mentre un altro momento di pirateria importante, che io rileggendo il libro, perché ormai sono passati quasi 30 anni, quindi tante cose me le ho dimenticate, e lì quello non parli, quando abbiamo tirato lo scaldabagno addosso ai fascisti, dal secondo piano, sì, fu divertente. Però c'è un momento simbolico, perché in pirateria c'erano tante anime diverse, c'erano gli stradaioli, i casinari, i pissaroli, c'erano i tunisini, c'era questo che ho fatto, ma c'era anche un gruppo creativo, semi intelligenze, diciamo, che all'inizio c'è stato, quando poi i fascisti venivano sempre, quindi c'era veramente da far botte, davvero, sempre. Sto gruppo disse, ma noi non siamo qui per fare la guerra, cioè noi siamo venuti perché vogliamo fare politica, perché vogliamo fare cultura, no? E però è inevitabile che quando tu vieni attaccato tre volte a settimana, quando come lui ti assediano, ti fanno cascata la vespa e ti circondano, quando come me ti aspettano sotto casa, è inevitabile che tu non pensi tanto più ai situazionisti, ma pensi a come porto a casa il cranio, no? E allora non si discuteva più di cultura, perché ci avevano trascinato al loro terreno, cioè che era quello militare. Cioè, noi gli fanno male a loro, loro fanno male a noi, io te meno, tu me meno, non se me n'ha. E tutto questo gruppo, quello un po' più attivo, che faceva le cose, quindi disse basta. E in quel momento ci fu un cambio bandiera, in cima a pirateria, non so se ti ricordi, fu levata la bandiera rossa e fu messa la bandiera pirata, che non eravamo i pirati, che non c'era bisogno. Senti, io stavo là e ho detto, vabbè, ma perché dovevo levare la bandiera rossa, ragazzi? Perché era bellissimo, perché quando tu prendevi il treno e facevi tra la stazione Ostiense e la stazione Tuscolana, tu passavi tra il villaggio globale che c'aveva la bandiera rossa e noi c'avevamo la bandiera rossa. Ed era bello, perché sembrava che saremmo presi un pezzo di città, no? E invece un cazzo di giorno, non so per quale motivo, io pure c'ero sul tetto però, andammo sul tetto, no io c'ero, mi ricordo sempre di sofferenza, di gioia, sì, no, però è una cosa di presa d'atto, cioè alzammo proprio la bandiera, niente, con rassegnazione o con entusiasmo, dipende dalle cose, tirammo su la bandiera di guerra, proprio si mise solo la bandiera nera, la bandiera pirata. Era curioso, c'erano i fascisti che la bandiera nera e noi contro la bandiera nera, e in qualche modo forse avevano vinto, perché ci avevano costretto a giocare a gioco loro. E poi spararono, poi venne la polizia e ci sgomberarono, la prima volta, insomma. Però ecco, tutte queste storie qua, velocissime, velocissime, tutto dentro sto libro. Poi, tante cose non puoi essere d'accordo. Cioè, tu in mezza pagina mi liquidi tutta la stagione tecno, cioè, voglio dire, non si può liquidare sì, ma la io stagione tecno. D'altronde io l'ho vissuta di striscio, quindi non può essere altrimenti. Io ho fatto qualche rave degli illegali che c'erano allora, ma tra l'altro manco me drogavo, quindi sì, vabbè, ballo, ok, è bella la tazza, però poi... ci ha avuto pure degli strasci, cioè no, no, si movimento rave, si pagava un tributo grosso, ci ha avuto una diffusione delle droghe sintetiche che sono diventate preponderanti, è diventato anche un fenomeno commerciale, si è persa tutta la spinta propulsiva iniziale autogestionaria, insomma vedendola anche un po' da fuori questo era l'effetto. Diciamo che tutti i movimenti dopo un po' perdono la spinta. E quello fu un movimento, secondo me, rivoluzionario importante, che ha perso la spinta, come era necessario che fosse, come tutte certo. Le cose, non perdono la spinta, non dai la possibilità ad altri di inventare un'altra cosa. Certo. Ci sono stati morti ovunque, sempre, a Pinterest, pure troppi, persino a Bolsena. Però è bello proprio per questo, perché lui rappresenta, e già che apri il libro e c'è stata la prefazione di Vincenzo Migliucci, nel senso... che per quanto il Fedingo è la seconda generazione, potremmo dire è il primo della seconda generazione, perché noi se la cantavamo di pirateria, che diciamo che eravamo il primo centro sociale di seconda, il famoso centro sociale di seconda generazione, ma non era vero, era stata scatasuna, solo che l'avevamo stroncati subito. E quindi lui è veramente la figura di soglia, cioè quello che ha aperto la stagione dei nuovi centri sociali, non quelli ereditati, ma quelli che ci siamo fatti. Però in questo essere stagione di soglia lui è legatissimo, lui è veramente la porta, cioè quando dico soglia dico proprio la porta, e la porta c'ha due versi. E quindi non è un caso che comunque tu sei rimasto legatissimo ai luoghi casa, quando io dico casa, cioè per noi casa era comunque Via dei Volsci, cioè per te il bar Marani, per te quel pezzetto di Via dei Volsci, per te quando dico Via dei Volsci dico Vincenzo Migliucci, nel senso che io non lo conoscevo personalmente, anche perché cazzo non... Però era comunque quando tutti affacciavi a questo mondo, cioè per noi il mondo si divideva così, c'erano stati i partigiani, poi c'erano stati gli autonomi, 68 zompavamo dove per fare, e poi c'eravamo noi, cioè era così, quindi c'erano stati i partigiani, poi c'era stata l'autonomia operaia e poi c'eravamo stati noi. Quindi in quanto figli d'autonomia operaia, cioè coloro che non volevano prendere il potere, che avevano la consapevolezza che non potevano fare rivoluzione, ma che volevano decostruire, depotenziare il potere, e quindi in questo... anticipatori da Green Bay e tutte queste altre stronzate. Per noi Migliucci comunque era una figura, anche perché stava lì ancora massiccio, quando noi siamo scesi in piazza era ancora massiccio, ancora romper cazzo, quindi penso che nel senso benevolo, sentirlo parlare in piazza, poi era già il vocione senza megafono, cioè era comunque una figura paterna, era comunque una figura centrale, e quindi lui da questo punto di vista è veramente la figura cerniera, perché poi il Fedingo lo vedevi a ballare, non lo so, tra la pizzica e il reggae, sta roba qui, c'è cioè questo legame popolare, che era un legame comunque antico, mentre per esempio a Pirateria, che fu un laboratorio straordinario, già parlo di Pirateria 2, quindi già l'evoluzione di Pirateria, a Pirateria a un certo punto un bel giorno uscì una scritta, e quello penso fu uno dei primi nel mondo, e quello dovresti rivedere, quella perché secondo me è molto importante, nella birreria c'era scritto tipo vaffanculo il quartiere, perché noi abbiamo sempre costanza, no? Facciamo il liscio perché il quartiere... Capito? Oppure c'erano due ragazze, magari che avevano una verde, una viola, che si baciavano, eh sì, però la vecchietta del quartiere, eh sì, però il quartiere, sempre sto cazzo del quartiere, no? A un bel giorno, cioè, noi fummo i primi a dire sti cazzi del quartiere, cioè, nel senso, ma che sono questo, i servizi sociali, cioè, questo, c'entra anziani, cioè, ma non ti piace, non entrare, ma ti piace ancora, cioè, nel senso... primo sta cosa, sto distacco, era una sperimentazione continua, mentre chiaramente diciamo in questo tu sei più migliucciano, cioè proprio la tradizione del popolo, cioè già che senti la pizzica fa schifo al cazzo, cioè è non perché è vero, evidentemente questa li sento proprio, no, è perché senti sta cosa folklorista, pure la pizzica antagonista ballare su sta pizzica ma è questo, è questa, no, è questa idea di ballare, no, sul morto, no, cioè è sempre continuare quello, tu balli nel folklore, no, ma nel senso stai all'interno, è un canto bigattinese. Cioè la cosa che noi riconoscemmo in quella cosa che lui dice chiaramente quando andammo nel 90, proprio i primordi della tecno, ancora prima della tecno, alla Valle dell'Inferno con tre scoppiate del Breakout che prese e facemmo la coppia, io dissi ma che è sta musica di me, cioè mi portarono, parcheggiamo, andiamo in mezzo a sto bosco col fango, il freddo, questa gente brutti, zozzi e cattivi, dice ma dove cazzo mi avete portato, maledetti che Dio vi fulmini tutti, vi bruci. E a un certo punto hanno detto via questa, mi hanno dato sta pasticca, la famosa droga sintetica. Dopo un po' ho fatto, oh, grazie, capito? Ho detto, ho capito che veramente altro ci va a far culo la pizzica e il quartiere, capito? Perché c'è questo scatto che lui non fece. Quello era il futuro, quella era la rivoluzione, capisci? La rivoluzione era altro che l'eucaristia, quello era il corpo di Cristo sballato. Quello, vabbè, comunque, per dire che non siamo d'accordo su tutto, ma... fino adesso questo libro qui è fondamentale. Ecco. Bella questa cosa che dici del dopo autonomia, perché in effetti fu così, perché già a partire dalla scadatura noi non avevamo fratelli maggiori, cioè io ero il più grande, mi stavo inventando un centro sociale in un posto in cui non c'erano e non c'era neanche un collettivo, ho dovuto costruire un collettivo dal niente, quindi insomma non avevo appigli, quindi ho fatto tutto di testa mia, insomma, sì, sì. Questo dico, non è aperta scala suona, è aperto il centro sociale della generazione, prima della scala suona non c'è un cazzo di questa roba, sì, qui. Era i primi dei spazio 90 è stato dopo la scala suona, sì. Beh, per noi comunque sì, per noi di zona scala suona era importante, tra l'altro lui ha fatto tutto il settore teatro, letteratura, cinema, quindi nella variante questa vetrocomunista stantia, tipo Ascanio Celestini, tutta sta roba, gli potete chiedere quello che volete perché lui su questa cosa ha un archivio mostruoso, perché veramente tutto quello che è la cultura popolare, la messa in discussione del concetto di cultura alta, cultura bassa, per cui il realismo popolare, qualsiasi tipo di teatro, non è solo il teatro, non solo quello, di narrazione, no, no, no, no, no, no, no, però voglio dire, hai fatto, anche perché hai fatto un archivio, mi ha invitato pure a me, che è tutto dire, cioè lui ha fatto un archivio mostruoso che è disponibile, tra l'altro, no? Sì, sì, so, quasi 800 lavori, sì. Tramite il libro si passa a questo archivio mostruoso, enorme, dove lui ha messo dentro di tutto, roba alta, bassa, roba media. E tra queste cose qui, naturalmente, siccome lui si interessava di cultura, c'è tutto il settore, ha seguito l'ultima cosa, diciamo, grande, è tutta l'esperienza del Valle. Valle è stata, insomma, l'ultima esperienza entusiasmante per me, perché veniva dal settore... degli artisti e delle artiste che avevamo vissuto in tutto il periodo autogestionario dei centri sociali, o fruitori oppure facevamo le iniziative, oltre ai concerti si faceva anche un po' di teatro, ma sempre nell'ottica di alzare i soldi, quindi sempre in un'ottica funzionale, poco magari di elaborazione e di percorso artistico. Il Valle doveva partire come una tre giorni, mi sono dato da fare per farne la diretta della seconda giornata quando Elio Germano ha fatto Viaggio al termine della notte musicato, e partecipando alle riunioni vedevo tutti questi teatranti che parlavano bene e ragionavano bene. È stato per 3 anni a Roma uno dei fulcri della proposta artistica, c'erano nomi anche internazionali di uno spessore notevole, c'erano delle file all'ingresso per entrare e tutto era gestito in maniera molto rigida, come non avevo mai visto, quindi in sala, nel rispetto di un teatro più antico di Roma, non si poteva portare da bere, non si poteva mangiare. E poi era, diciamo, sostenuto anche da due importanti figure, da Mattei, che è uno dei, Ugo Mattei, degli estensori dei quesiti referendari per l'acqua pubblica, e Stefano Rodotà, che è stato pure candidato alla presidenza della Repubblica. Questa è la scritta, lui è famoso perché anche la Digos lo qualifica così negli atti proprio, quelli certificati, perché era quello che faceva le scritte ai cortei, perché c'era una bellissima grafia, che non è facile una bomboletta. C'ha un carattere, il carattere del pedingo, cioè, che è piegato in un determinato modo, c'aveva il monopolio della bomboletta, diciamo, perché c'aveva questa grafia meravigliosa di primo acchito, anche sta un po' storta leggermente, però elegante, neogotica, molto bella. Insomma, questo discorso del bene comune mi aveva preso, era una bella iniziativa politica che in qualche modo usciva dal percorso al quale era abituato, era un'anomalia. E secondo me era anche molto da insegnare. Poi si è impantanata nella trattativa con il comune, che è finita come è finita, come era finita d'altronde la trattativa per l'assegnazione dei centri sociali con la famosa delibera. Insomma, è sempre perdente il confronto alle istituzioni quando non è da una posizione di forza, perché è sempre una gara al ribasso. Ma loro sanno che quando accetti di trattare già perso. Perché devi proprio... Perché loro la tirano per le lunghe, ti prendono per sfinimento, ti fanno tanti piccoli ricatti continui, quindi... e sviliscono alla fine il progetto. La fondazione era un gran bel progetto, poi è naufragato così. Tanti aspetti abbiamo toccato, ne mancano un paio e poi penso che l'abbiamo toccati quasi tutti. L'internazionalismo, perché mi giravo, ho visto il Chiapas, sta roba, perché noi eravamo Roma, quindi questa è la storia del movimento romano, ma non è solo Roma, perché comunque Roma era legata con naturalmente la Turchia, naturalmente con Chiapas, cioè io non ci andavo, ma lui sì. Beh, però io c'ho Parigi e tu non c'hai nel libro. E poi il Paese Basco, perché noi eravamo molto... galleria, beh, già che lui partiva che si chiamava Scatasuna e ne avete pagato le conseguenze, e lui girava parecchio, quindi insomma c'è anche la storia di questi link internazionali, specie quello turco. Sì, il Kurdistan pure è stato un passaggio importante, che per esempio l'introduzione di Vincenzo mi ha riportato alla memoria. Io ricordavo solo la manifestazione in cui si diede l'assalto a Piazza Esedra delle linee aeree turche. Ma c'era un precedente, perché quando Öcalan era arrivato a Roma a chiedere asilo politico, circolò la notizia che era all'ospedale del Celio e quindi lì si creò Piazza Kurdistan, ci fu un presidio fisso per giorni e giorni con curdi provenienti anche da fuori dall'Italia, insomma... è stata pure quella una bella parte. Fu venduto chi da D'Alema, pare che... Fu costretto a ripartire e in Kenya l'arrestarono i servizi segreti turchi, insomma. Sì, l'Italia su pressioni internazionali se ne lavò le mani. Sì, sì, sempre carcere speciale, di isolamento. Io l'avevo citato una sola volta, purtroppo, perché una volta che ero tornato da Parigi tutto serio, perché io ero fidanzato, quindi stavo a Parigi, imparavo il francese, facevo questa cosa così, e torno a Piccadilly e tutti parlavano dei fascisti, dei scontri, e vabbè, mi ero rotto a cazzo, perché non potevo sempre parlare dei fascisti, parlavamo di cose nostre. Ah no, perché loro sono cattivi, loro sono stronzi, cioè. Infatti guarda, stasera ci sto io lì all'angolo, a pizza a pizza dove si menano, ci vado io, che almeno quando io sto calmo, sto tranquillo, c'è ragione. Cioè, stavo lì, perché io sono cresciuto nelle strade, non come voi dell'alta borghesia, io sono cresciuto io i fascisti, cioè sono fan, però qua ci parlo io. A un certo punto stavo lì da solo come il coglione, mi arrivano sta quindicina di fascisti. Cioè sono arrivati proprio le bandiere, le cose, il grido, devi, al duce, capito? Niente. A me si è occlusa la vena. Ho scavalcato quel cazzo di cancello, ho preso il bastone e ho cominciato a seguire questi fascisti. Che naturalmente non credevano che ero da solo. Quindi hanno visto uno psicopatico che correva e sono scappati. Ah, io mi sono sentito un grande, capito? Ah, capito, vado, cioè sto a cacciare da solo, finalmente, i nuovi partigiani, i nuovi partigiani. Finché corri, questi si sono resi conto che ero io un coglione. E io non c'avevo già manco più il fiato, stavo lì con sto bastone. E poi ho detto, mo che faccio? Cioè, mo che cazzo faccio con questo bastardo? Riscappo. Non posso mica scappare. Non posso molto scappare. Morimo così, poi i compagni diranno, Antonio, il nostro eroe. E intanto vado lì, tanto così. Il tempo di avvicinarmi, capito? Mi avvicino a loro, e loro si avvicinano. Io un po' più piano, devo dire prima. Io piano piano mi avvicino a loro. Loro si avvicinano un po' più veloci, che li vedo che rallentano, si fermano. Li vedo proprio le facce terrorizzate. Si rigirano e cominciano a scappare alla grande. E tu lì di nuovo perché no, io credo che il cazzo era successo dietro di me. Ci stavano 20 arcerini che stavano da noi, che lavoravano in mercati generali, che giravano con no i coltelli, mazze chiodate, spiedi, ma roba medievale, cioè roba fottutamente roba medievale, che stavano gonfi proprio. Capito che mi hanno passato, capito? Io stavo fermo così con sto bastoncino, capito? E queste con queste spade infinite, questi coltellacci da macellare, capito? Lavoravano nei mercati generali e noi gli davamo ospitalità. Questi siamo partiti alla carica e mi hanno salvato la vita. E questo simpatico episodio anche nel dolce libro. Antonio, solitamente pacato e razionale. No, soltanto. Sì, perché poi è a forma di diario, quindi. Non è un romanzo, sono tanti episodi che compongono come tasselli un quadro d'insieme. Però che fanno venire voglia di scrivere questo. Intanto ho fatto una scelta di tutte le cose che sono rimaste impresse nella memoria. Per le date chiaramente mi sono aiutato pure con la rete. E poi comunque ho diviso per blocchi, cioè, c'è stato il periodo a Scatasuna, periodo delle tre piraterie, periodo Pripke, periodo dei viaggi internazionalisti, comunque tutto ha una sua collocazione, quindi alla fine si ricostruisce. E poi in questi mesi, cominciato a fine luglio dell'anno scorso e diciamo a febbraio era chiuso, però mi sono consultato con Antonio, con Patrick, Pisellino, Giancarlo, insomma... Qua e là ho chiesto sulle cose che più mi sfuggivano magari. Per esempio il Botta mi ha ricordato che non si tratta di un estintore ma di un gabinetto, quello che è volato dal treno. Quindi verrà corretto nella seconda edizione. Questa cosa del passaggio tedesco non me la ricordavo, per esempio. Quello è terrificante. Al ritorno lì del... Vado col vagone, vedi, hanno acceso i fari. Sì. Eravate qua? Siamo dentro il vagone, tornata in Germania, .it. E non mi ricordo se proprio tu o qualcuno ti detto, ragazzi, consumate tutto quello che c'avevo perché qua vanno arrivando. Bastardi, che noi ci hanno fermato e siamo dovuti piattare tutto. E noi siamo stati tutto insieme. È vero, sì. Mi ricordo sta pausa, sta lunga pausa. Lunga pausa con i fari puntati, i cani. E comunque non abbiamo dato i documenti. Noi siamo stati l'unico. E alla fine ci hanno fatto ripartire. Alla fine siamo stati l'unico. Siete gagliardi, vi famo ripartire. Che una loro ci dissero, siete l'ultimo vagone. Era un vagone, fai conto pieno, circa. Però il doppio delle persone, perché eravamo tutti seduti. Per esempio io in Olanda mi ricordo a Amsterdam che un vagone non fu fatto scendere, invece Antonio mi dice tutto il treno, uno dei due treni. Erano due treni. Uno il secondo treno è quello che non è stato fatto. Ah, non è stato fatto, quindi pure questa cosa va precisata. Ho tutto, il treno nostro è sceso, 5.000. Su due treni 5.000 saremmo stati. E invece al ritorno ci hanno staccato proprio il vagone nostro, vedi? Mi hai fatto ricordare i lampioni, la lunga pausa, siamo stati un sacco di tempo. A noi ci dissero proprio, ci fu la scelta democraticissima, ma poi ci dissero, ragazzi, gli altri hanno ceduto e dicono che se li fanno entrare gli diamo i documenti e non ci fanno niente. Se invece non li facciamo entrare, staccano il treno e a noi ci si bevono a tutti. Cosa facciamo? E noi disse. Drogamose, la risposta fu questa. Droga fino alla fine. Drogamose tutti, amose tutto. Questa fu la risposta. Tutto il vagone nostro, compatto, l'unico dei due treni, disse lotta dura fino alla senza paura. E tu ce tenevi e ce te tenevi guardato. Funghetti, allora io funghi l'ho portato. È stato bello. È stato bello, grazie. C'è l'autore che dedica, fa la firma con dedica, quindi sono approfittato. Va bene.